Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo di libri sui libri, sulla passione del leggere, sulle professioni del libro, e cominciamo con una delle figure più note e autorevoli dell'editoria europea, Teresa Cremisi, che è stata una delle protagoniste dell'industria editoriale francese, la testa di gruppi importanti come Gallimard e Flammarion. La Cremisi adesso ha scritto un libro che non è un libro sull'editoria, non è neanche un libro di memorie, ma è un libro nel quale parla di se stessa indirettamente, delle proprie esperienze, ovviamente anche quelle editoriali. Il titolo del libro è L'Art Triomphant, è pubblicato da Delphi, 186 pagine, 16 euro, ed è tradotto da Lorenza Di Lella e Francesca Scala. Quella della Cremisi è una vita particolarmente interessante. La Cremisi nasce ad Alessandria d'Egitto in una famiglia italiana, il padre è un dirigente d'azienda, la madre un artista con passaporto britannico. La vita in quegli anni ad Alessandria è assolutamente deliziosa, ma ben presto la situazione precipita fino alla crisi di Suez del 1956, che costringerà la famiglia a riparare in Italia, prima a Roma e poi a Milano. Per i genitori è la fine di un mondo, per la giovane protagonista del libro l'inizio della vita appunto in Italia. Qui muoverà i primi passi nell'editoria che poi la porteranno in Francia. E questo libro è quasi un romanzo, per la grazia nella descrizione di un mondo in trasformazione, nel quale la protagonista coltiva delle passioni insolite, per esempio quella da bambina di studiare le grandi battaglie navali che si erano svolte ad Alessandria, in particolare nel Golfo di Abukir, le grandi navi dell'Ottocento, tra le quali quella che dà appunto il titolo al libro, Triomphant. E su questo adesso sentiamo l'autrice. Buonasera a Teresa Cremisi. Buonasera. Teresa Cremisi, le leggo alcune righe tratte da una delle ultime pagine del suo libro, nelle quali lei riassume la sua vita. Ho vissuto come meglio ho potuto, non mi sono limitata a sopravvivere, ho avuto fortuna, ma per me non c'è stata nessuna triomphante. La triomphante ricorda il nome di una nave. Che cos'è mancato allora per il trionfo della sua vita? Allora, prima di tutto non sono esattamente io quella che parla, è un io narrante che ha più anni di me, ha quasi 80 anni e che fa un bilancio. Ma la capisco e condivido questa impressione di inadeguatezza rispetto ai sogni della giovinezza. Sogni che peraltro in gran parte la protagonista o lei medesima ha realizzato, partendo da una situazione familiare complicata, dal fatto che la famiglia si è dovuta trasferire da Alessandria, insomma non sono stati anni semplici quella della giovinezza. Non sono stati anni semplici, ma è vero che la protagonista riflette qualcosa che io sento moltissimo, cioè che c'è tra i 16 e i 22 anni, in alcune persone naturalmente, c'è uno slancio, un bisogno di fare qualcosa della propria vita e dei vaghi sogni di gloria. E in questa fase dell'età della protagonista a un certo punto c'è la scoperta di un'altra lingua, perché la protagonista arriva in Italia e appunto cambia lingua, e lei dice questo comportava una rivoluzione interiore. Che cosa ha rappresentato questo cambio della lingua? Ma moltissimo. Io credo che la lingua riflette delle cose molto profonde e incide su cose profonde. Non si pensa nello stesso modo, non si sogna nello stesso modo, non si agisce nello stesso modo in una lingua o nell'altra, in un paese o nell'altro. C'è qualcosa che attraverso la voce passa nel corpo, nel cervello, nel modo di fare. Si capiscono tratti salienti di umorismo in una lingua, non si capiscono in un'altra, insomma. È molto importante parlare una lingua oppure parlarne un'altra. E che cosa ha rappresentato la riscoperta dell'italiano parlato? Penso che l'italiano è una lingua più, allo stesso tempo più semplice e più brutale del francese, per esempio. È una lingua che porta qualcosa di più giovanile. Interessante. Anche nella scrittura? No, non andrei fino a lì. Penso che c'è qualcosa di più giovane che nel francese. Non le so spiegare perché, oppure oppure dovrei andare avanti per con molti esempi e la cosa diventa complicata. Certo. Torniamo alla sua giovinezza, la giovinezza della protagonista e alla sua famiglia. A un certo punto arrivate a Milano, arrivano a Milano e lì la protagonista scopre un disastro addirittura considerevole nella famiglia, un disastro legato appunto alle sorti del papà e della mamma che si sono dovuti trasferire ad Alessandria. Però poi questo disastro è stato uno sprone per la protagonista per cambiare vita o per maturare. Ma credo che la consapevolezza del disastro in un certo senso faccia bene. Fa bene se uno ha la forza di reagire, cioè fa bene fino a una certa età. Il strappare le radici, strappare l'ambiente abituale e anche le abitudini professionali a persone che hanno più di 40 anni è un piccolo delitto, è uccidere una parte di loro. Per chi deve ancora cominciare la vita è una tabula rasa, è una prova, che insomma tutto quello che non uccide rafforza, insomma non le sto a spiegare. Se uno ne esce forse rafforzato, diverso e rafforzato. Il problema di questi cambi di luogo costretti, di questi esili, è che chi soffre di più non sa parlare, e questa è una regola che si valida per tutti gli esiliati. Non riescono nemmeno a parlare ai loro figli e ai loro nipoti, non dicono niente. Ma ecco, riprendiamo questa parola esiliata. Lei si è sentita un'esiliata durante la sua vita? Beh, sì, posso dirlo. Sì, non certo. C'è più grave del mio esilio, c'è la miseria, c'è la fame, c'è la malattia, la morte, ma insomma un esilio è un esilio. Un esilio vuol dire che lei ricostruisce uno schema di appartenenza o di non appartenenza, un modo di vivere dal nulla. Non c'è più nessuno per darle un esempio. Anche un esempio non conclamato, ma un esempio da imitare. C'è la tabula rasa. E in questo esilio c'era però una stella polare, un obiettivo che era l'Occidente in cui la protagonista aveva riposto ogni sua speranza, a cui si era uniformata con una buona... Ecco, però a un certo punto l'Occidente in qualche misura o la delude o la lascia molto più fredda. E come tutto, ma è vero che l'Occidente sembrava che andare ad ovest fosse andare verso il progresso, la libertà, la verità e la giustizia. Sembrava questo. Ovviamente non lo è, ma questo andare all'ovest era un desiderio di un destino. E quando ritorna ad Alessandria d'Egitto, sia pure per una visita breve, non scatta il gusto del ricordo, perché lei dice: non avevo voglia di giocare con i ricordi, di resuscitarli, di cullarli. La nostalgia non appartiene a questa sfera. Sì, non ho molti sospetti sulla nostalgia e sul crogiolarsi nel tempo passato, che era meglio, che era più bello, peggio, eccetera. Diffido da questo atteggiamento, per cui ho trasmesso alla mia protagonista questa reticenza. Il successo della protagonista poi è un successo professionale nel campo dell'editoria, e lì nel libro confessa anche di avere un rapporto particolare con i libri. Scrive: ho fiducia nei testi degli autori che amo. Ecco, qual è stato il rapporto con i libri? Quanto è stato importante questo rapporto, al di là della sfera professionale ovviamente? Comunque io credo davvero che i libri, ma posso dirlo anche di altre opere d'arte, chi è sensibile alla musica o chi è sensibile alla pittura, i libri sono il veicolo di una perfezione. Quando lei incontra un autore che le corrisponde, perché si capisce quello che dice, il messaggio passa, ci si sente come quando si è incontrato un amico, ci sono i colpi di fulmine dell'amicizia. È la stessa cosa. Incoraggio le persone sensibili alla letteratura a non fare della letteratura qualcosa di freddo, di ghiacciato, qualcosa da studiare, o comunque non soltanto da studiare. Incoraggio a considerarlo un alimento quotidiano della vita. Leggere due pagine è come lavarsi i denti, poi si buttano via, si riprendono. E instaurare un rapporto d'amicizia con le parole di qualcuno che magari è morto 100 anni prima, 1000 anni prima. Questo modo si vede meglio il mondo in cui si vive. È arrivata a un'età abbastanza rispettabile, la sua protagonista confessa di constatare che uno dei problemi della vecchiaia, se si accetta una malattia o un ammollimento cerebrale, è che si invecchia restando giovani, addirittura a volte si muore giovani. È una tragedia, si diventa sempre più giovani perché sempre più liberi e il corpo non segue. In realtà è una tragedia, si muore giovani, a parte se si rimbecillisce, insomma, ma questo è ancora un altro discorso. Ma è vero che liberi di molte costrizioni, spesso ci sono persone anziane che, se non fosse che il corpo non segue completamente, sarebbero più giovani, più spensierati, più allegri, più brillanti anche nell'osservazione della vita. E in questa giovinezza stagionata si sta benissimo ad Atrani. Sì, io ho una passione per Atrani, per cui siccome lo conosco ha avuto il suo posto nel libro. Ecco. Grazie a Teresa Cremisi, autrice di La Trionfante. Buona serata. Grazie, buonasera. Tra le passioni giovanili della protagonista del libro della Cremisi c'è Lorenz d'Arabia, scoperto dall'appassionante lettura dei 7 pilastri della saggezza che accompagna nel viaggio da Alessandria a Genova la protagonista, la quale così scrive di quell'esperienza: intuivo che quello era un libro importante, raccontava di un'idea, di un sogno, e quel sogno si era infranto, era il racconto di un amore folle per una terra che non era la terra dell'autore, esattamente quello che stava per succedere alla Cremisi. Un libro su Lorenz d'Arabia è quello di Fabio Amodeo e Mario José Cereghino, Lorenz d'Arabia e l'invenzione del Medio Oriente. Il primo è un giornalista, storico e fotografo, il secondo uno storico esperto di archeologia anglosassone. Il libro è pubblicato da Feltrinelli, 208 pagine, 17 euro. Il libro parte da una scoperta archivistica relativa alla difficile trattativa per realizzare già nel 1935 un film sulle gesta di Lorenz d'Arabia, con largo anticipo su quello che sarebbe stato il capolavoro di David Lean con Peter O'Toole. La trattativa riguardò allora i reciproci ruoli ricoperti in quella vicenda dai vari protagonisti, arabi, britannici, turchi, e fu un tentativo che non andò in porto e bisognò poi aspettare appunto quasi 30 anni per avere l'altra pellicola. Ma da questa scoperta lo studio su Lorenz d'Arabia parte per tratteggiare e studiare un personaggio leggendario che entra in scena, per così dire, a metà del libro, dopo un'attenta analisi della situazione storica e politica nella quale maturarono le sue gesta, che, spiega il libro, vennero ampiamente tradite in molti particolari del film, appunto, del 1962. Ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Abbiamo parlato di libri, di mestieri del libro, per esempio quello di consulente editoriale, cioè di colui o colei che legge le proposte per decidere o consigliare se pubblicare o meno. Uno dei più geniali consulenti editoriali fu certamente in Italia un grande scrittore italiano, Giorgio Manganelli, che lavorò con Garzanti e poi con Einaudi, e adesso le sue schede, i suoi giudizi e molti inediti vengono raccolti in estrosità rigorose di un consulente editoriale che viene pubblicato da Delphi, 332 pagine, 15 euro. Qui troviamo appunto le schede di Manganelli, diverse lettere con personaggi vari, soprattutto delle Einaudi, con i quali scambiò opinioni spesso al vetriolo. A un certo punto dovrà confessare allo stesso editore Giulio Einaudi di aver deciso di passare, questo accadde nel 1975, come autore a Rizzoli per ragioni rigorosamente economiche. Pur con tutta l'amarezza, scrive di lasciare una casa editrice di cui ho apprezzato l'eleganza intellettuale, lo stile morale e anche, devo dire, l'impareggiabile raffinatezza grafica. E poi, naturalmente, nel libro ci sono tanti giudizi su tanti autori, per esempio di Vassalli, che Manganelli stimava molto. Scrive: il suo linguaggio miscela immagini felicemente impossibili, stelle pantagrueliche, grotteschi fonici, frammenti di ilari citazioni, schegge di nobili e fatiscenti edifici. Il risultato è un'euforica bisboccia verbale, sconnessa e avvampante, una sorta di furibonda, drammatica, enigmatica festa. Di un libro americano degli anni 30 invece scrive: si tratta di un libro di qualità. Devo aggiungere che è il tipo di qualità che non mi interessa e che mi pare un libro che forse un giorno sarà antico, ma per ora è un prezioso lacerto, forse una medusa, un osso di seppia, una scarpa di donna senza tacco o magari un preservativo usato a metà. Giorgio von Straten è un letterato che oggi dirige l'Istituto Italiano di Cultura a New York e che pubblica Storie di libri perduti, la terza, 136 pagine, 14 euro. Qui si parla di 8 libri che si dice siano stati scritti, ma che non furono mai pubblicati, magari perché l'autore li rinnegò, perché furono censurati, rubati, distrutti o archiviati dagli eredi. E qui appunto 8 casi di queste vicende, a partire da uno che lo stesso autore, da un libro che lo stesso autore lesse nel 2010, un romanzo di Romano Bilenchi, che era da poco scomparso. La vedova aveva trovato in un cassetto questo manoscritto intitolato Il Viale, lo sottopone appunto all'attenzione di von Straten, il quale lo trova un romanzo bellissimo, anche se incompleto, ma che la vedova poi avrebbe deciso di bruciare senza che del manoscritto rimanesse copia. C'è anche Gogol, che come noto bruciò la seconda parte del suo capolavoro Le anime morte, e sentiamo qui una possibile interpretazione di quel gesto. Forse, al di là delle crisi mistiche e dei complotti politici, il vero motivo, il più consono alla natura profonda di Gogol, è che lo distrusse perché non trovava il modo giusto per portare quel simpatico truffaldino di Cicicov alla redenzione. Non riusciva a dare realtà, verità, ai personaggi positivi. Tanto la sua mano era straordinariamente efficace nel disegnare quelle figure di truffatori irredimibili, di mediocri possidenti di provincia, dei piccoli mostri della grande Russia, tanto si indeboliva quando doveva incamminarsi sulla strada del bene. Quasi ammutolisse di fronte al compito di descrivere quel bene cui pure tanto aspirava, come ammutoliva Cicicov di fronte al possidente saggio e capace rappresentato nel romanzo da Costanzoglo. Non è, del resto, il problema che si troverà poi di fronte anche Dostoevskij nella sua difficoltà ad affiancare alle figure grandiose dei peccatori descrizioni altrettanto efficaci di uomini buoni? Un problema che neppure la volontà edificante del realismo socialista riuscirà a superare. E poi c'è un libro censurato a Londra nel 1824, Le memorie di Byron, e vari altri, tra cui uno dei più importanti intellettuali del Novecento, Walter Benjamin, che si suicidò dopo il fallimento di un tentativo di fuga dalla Francia occupata dai nazisti. E nella valigia che aveva con sé ci sarebbe stato un manoscritto importante di cui non si è saputo assolutamente più nulla. E di Benjamin, Eliot pubblica La mia biblioteca, che raccoglie 3 scritti su libri tradotti da Cristina Guarneri, e il libro introdotto da Paolo Mauri, 58 pagine, 7,50 euro. In uno di questi libri Benjamin parla della biblioteca dedicando attenzione al tema del collezionismo di libri, per il quale scrive: il possesso è il rapporto più profondo che si possa avere in generale con le cose, non che esse siano viventi in lui, è egli stesso invece ad abitare in loro, cioè nei libri. Nel secondo invece si parla del rapporto che si instaura col romanzo, una riflessione questa ispirata a una battuta di Oscar Wilde, secondo il quale quando mi annoio prendo un buon romanzo, mi siedo presso il fuoco del camino e lo osservo con attenzione. E con queste parole Benjamin interpreta queste righe di Wilde. Il lettore di romanzi si comporta in modo diverso da colui che si immerge in una poesia o da chi segue un dramma teatrale. Prima di tutto è solo, diversamente dall'uomo che si trova in mezzo a un pubblico o da chi legge una poesia. L'uno è insaccato nella massa e partecipa alla sua presa di posizione. L'altro è pronto a rivolgersi a un compagno prestando la propria voce alla poesia. Il lettore del romanzo è solo e per un bel po' di tempo. Di più, in questa solitudine si impossessa della sua materia in modo più geloso, più esclusivo degli altri due. Egli è pronto ad appropriarsene, per così dire, senza lasciare traccia, anzi, letteralmente a consumarla, poiché annienta, inghiotte la materia come il fuoco divora i ceppi nel camino. La tensione che attraversa l'opera somiglia molto alla corrente d'aria che incita le fiamme nel camino e ravviva il loro gioco. Sul collezionismo, di cui abbiamo appena parlato, vi segnalo un libro di Americo Scarlatti, che è lo pseudonimo di uno scrittore bibliotecario dell'Ottocento molto noto, Carlo Mascaretti, che scrisse Curiosità bibliografiche della bibliofilia, della bibliotia e altre malattie. Il libro curato da Matteo Noia per Vita Felice, 318 pagine, 14,50 euro, e raccoglie le riflessioni sulla passione per i libri e sulle perversioni cui questa passione può condurre, per esempio la bibliofagia, il mangiare libri, di cui si trova traccia già nella Bibbia. Anche Bernabò Visconti, scrive l'autore, fece mangiare nel 1370 a due legati pontifici la bolla di scomunica che quelli gli volevano consegnare. Non era proprio un libro, ma la strada era tracciata, e qua troviamo molti altri esempi, per esempio di autentiche condanne a mangiare libri che il potere riteneva indigesti e che quindi fecero in molti casi trangugiare agli sfortunati autori. Poi c'è la bibliolitia, cioè la distruzione di libri da parte degli stessi autori, e poi tanti altri temi, per esempio sui titoli, le dediche, le storie di libri, i libri adottivi, cioè quelli che portano il nome un certo autore che in realtà non li scrisse affatto, per esempio il Conte di Montecristo, che non fu certamente scritto da Dumas ma da Pierangelo Fiorentino. Sempre la Vita Felice pubblica il libro di Guido Biagi per la storia del libro in Italia, curato da Pino Di Branco, 178 pagine, 11,50 euro. Questo è un libro scritto su commissione del governo italiano in occasione dell'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Il governo appunto chiese di presentare anche la parte, il padiglione italiano, con un libro che parlasse dell'editoria italiana, con una storia del libro italiano, e qui troviamo appunto una storia che sarà particolarmente importante per gli appassionati di libri e di libri antichi, perché troviamo tutte le schede delle varie città d'Italia che hanno ospitato fin dall'inizio della stampa le più importanti stamperie, che hanno spesso apportato delle innovazioni importanti all'editoria, a partire dal famosissimo Aldo Manuzio. A questo punto il confettino. Vi propongo un libro estivo, un romanzo d'avventura ambientato in Cornovaglia alla fine degli anni 50, dove si reca Ulysses per trascorrere un periodo di ferie. Sarà un mese di scoperta di segreti e misteri che fanno la trama del libro di Pier Domenico Baccalario, che presenta come autore il protagonista Ulysses Moore. Il libro si intitola La grande estate, pubblicato da PM, 222 pagine, 17 euro, ed è il 18° volume della saga appunto di Ulysses Moore. Ultimi arrivi. Parliamo di un tema di cui si parla molto in questo periodo, il populismo, attraverso il libro di Matteo Pucciarelli, che si intitola Anatomia di un populista, la vera storia di Matteo Salvini. L'autore è un giornalista di Repubblica, il libro pubblicato da Feltrinelli, 174 pagine, 15 euro, e questa è una radiografia dell'italiano medio Matteo Salvini, così lo definisce l'autore, nella sua ormai lunga carriera politica, che rischia di provocare sbandamenti negli elettorati tradizionali, sia a destra che a sinistra. Infatti l'autore scrive di una connessione sentimentale tra il populista della porta accanto e un pezzo d'Italia che rimane un dato di fatto innegabile. E lo stesso Matteo Salvini, con Matteo Pandini e Rodolfo Sala, ha pubblicato Secondo Matteo, Follia e coraggio per cambiare il paese, pubblicato da Rizzoli, 232 pagine, 17 euro. E poi vi segnalo un altro reportage di Hind Frahi, che è una giornalista d'origine marocchina che vive ormai da tanti anni in Belgio, la quale si era infiltrata 10 anni fa nel famigerato quartiere di Bruxelles di Molenbeek, di triste memoria, popolata, come sappiamo, da una fortissima comunità musulmana. E quell'esperienza e i successivi approfondimenti troviamo nel libro Infiltrata a Molenbeek, la mia indagine nella culla europea del terrorismo islamico, è pubblicato da Rizzoli, 206 pagine, 15 euro, tradotto da Valeria Pazzi e Vittoria De Stefani, e questa è una testimonianza che possiamo veramente definire agghiacciante su quello che l'autrice considera come un resoconto sull'estremismo religioso tukur. Infatti aggiunge che senza dubbio alcuni penseranno che quest'opera sia stata scritta in malafede. Ci tengo a sottolineare che gli estremisti rappresentano solo una minima parte della comunità musulmana. Per fortuna i moderati sono in maggioranza. Ma per quanto tempo ancora sarà così? Si chiede l'autrice. Poi vi segnalo due romanzi. Uno de Lo Stato Sociale, che è una band di Bologna che pubblica il suo primo romanzo, Il Movimento è Fermo, un romanzo d'amore e libertà ma non troppo, pubblicato da Rizzoli, 17 euro, 306 pagine, un libro che si svolge naturalmente a Bologna per spostarsi prima in Svizzera e soprattutto in Svizzera, dove il gruppo di giovani protagonisti si reca per una protesta contro il tentativo di controllare la rete. E infine di Gabriella Genisi, Una nuova avventura del commissario Lolita Lobosco. Questa si intitola Mare Nero, è pubblicata da Sonzogno, 200 pagine, 14 euro, ed è un giallo ambientato nelle acque dell'Adriatico Pugliese. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Pietro Raccorti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.